La campagna Madri Fuori con i loro bambini e bambine nasce in aprile di quest'anno, quando in Commissione Giustizia della Camera c'è stato uno scontro tra governo e opposizione, perché il Partito Democratico aveva presentato una norma per garantire ulteriormente le donne madri di bimbi piccoli rispetto alla possibilità di scontare la loro pena oppure di aspettare il giudizio in una forma alternativa al carcere, quindi non costringendo i loro bambini a stare in carcere con loro. In quell'occasione però Fratelli d'Italia ha contrattaccato, non solo opponendosi a questa norma migliorativa, ma addirittura proponendo una nuova legge che prevede il fatto di negare, di revocare la potestà genitoriale a tutte le donne con una condanna definitiva oltre i 5 anni. Questa proposta era già stata presentata dal senatore Cirielli nel 2019 ed è stata appunto ripresentata quest'anno. In quell'occasione si è creata una rete di donne e di associazioni che ha, come dire, si è mobilitata contro questa proposta, che da un lato è assurda dal punto di vista giuridico, perché non si può colpire in maniera indiscriminata un gruppo di donne, no? Al di là delle singole posizioni individuali, ma soprattutto è una sofferenza aggiuntiva imposta alle donne detenute madri, che insomma abbiamo ritenuto insopportabile e quindi contro la quale ci siamo attivate con diverse iniziative un po' in tutto il paese. Con la norma del pacchetto sicurezza cosa accadrebbe nello specifico? Quella norma fa a rendere più restrittive le leggi vigenti, che oggi non sono delle cattive leggi, anzi, nel senso, prevedono diverse modalità e diverse possibilità per le donne che abbiano bimbi al di sotto di un anno, quindi si parla veramente di bambini piccolissimi, e per le donne che siano in gravidanza, la possibilità o di differire la pena se sono definitive, o comunque di anche attendere il giudizio in forme diverse dal carcere, per esempio con gli arresti domiciliari. Oggi questa norma è molto aperta, quindi dovrebbe dare alle donne questa possibilità. Il disegno di legge attualmente proposto invece è molto più restrittivo e dice che non devono essere concesse queste possibilità alle donne che sono a rischio recidiva. Ora bisogna capire che cosa vuol dire questa espressione. Rischio recidiva vuol dire che hanno un'alta probabilità di continuare a commettere reati. Ora, quello che noi contestiamo è che il rischio recidiva per le donne detenute oggi in Italia non riguarda le donne che fanno reati gravi, ma riguarda la massa delle donne che sono in carcere per reati minori, soprattutto i reati contro il patrimonio. E i reati contro il patrimonio, legacy furti, per lo più, che sono il motivo per cui la stragrande maggioranza delle donne sono in carcere, riguardano dei gruppi sociali particolari, riguardano le donne rom, riguardano le donne più povere, riguardano anche le donne che usano sostanze e che sono in situazione sociale più marginale e quindi hanno bisogno di commettere piccoli furti per acquistare le droghe di cui hanno bisogno. Quindi è una norma che noi abbiamo definito razzista e classista, perché andrà a colpire le più fragili tra le donne detenute, e questo, come puoi immaginare, è ancora più odioso. Sì. Uno slittamento verso uno stato penale, insomma. È così, ma d'altra parte, quando non si fanno politiche sociali adeguate e quando non si rispettano e promuovono i diritti dei più fragili, se non si fa tutto ciò, alla fine si ricade nel penale, ed è quello che sta avvenendo. Peraltro, se tu scorri tutti gli articoli di questo disegno di legge, quello che vedi è che va a colpire chi? Va a colpire le persone detenute. Tra l'altro, gli articoli sulle persone detenute sono gravissimi, perché sono articoli che penalizzano in maniera particolare. Lì c'è scritto le rivolte, ma non sono le rivolte, sono le proteste, sono il diritto di avere voce sui propri diritti. Lo stesso dicasi per i migranti e i richiedenti asilo. Colpiscono chi occupa una casa perché non ne ha una, colpiscono quelli che protestano in qualche modo pubblicamente. Quindi è tutto tutto un disegno di legge che va nella direzione di restringere le libertà e di colpire attraverso un diritto penale massimo, come lo abbiamo chiamato, figure sociali che spesso sono in condizioni appunto di fragilità e di minor tutela dei loro diritti. L'impatto dei bambini che vivono in carcere con le loro madri, qual è l'impatto? L'impatto puoi immaginare, insomma, tutte queste misure colpiscono naturalmente le madri, ma colpiscono prima di tutto i bambini. Le madri si trovano di fronte a un'alternativa che è drammatica: o separarsi dai loro figli per evitare loro di stare in carcere, o mantenere la relazione con i loro figli imponendo loro il carcere. Una madre di fronte a una scelta così, le leggi vigenti e le leggi che l'opposizione voleva migliorare tendevano appunto a evitare a una madre e ai loro bambini questa alternativa drastica. Purtroppo la destra va nella direzione opposta.